e scrivi che preferir conviene da steni di virtude utile colpa. Gran desio di regnare sei mia discolpa. Alla regina Orvalo abbia il decreto l'ultimo assenso e cada il rivale indegno che contenderci può, zidiana, e il regno.